l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua con l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale legato all'Europa. Europa che viene raccontata quotidianamente da Radio 24 nella sua attualità politica ed economica. Noi il sabato cerchiamo anche altre sfumature, altri punti di vista, cerchiamo di respirare un po' questa cultura europea, cerchiamo di andare alla ricerca anche di esempi di unione, di collaborazione. Partiamo e parliamo di progetti che possono essere anche copiati, che possono essere replicati. Insomma, contaminazione è un po' la parola chiave del nostro programma. Ci trovate anche su Facebook, nelle nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter @FedericoTaddia. Ogni settimana un viaggio, oggi la prima tappa è Parigi. Est-ce qu'il était en train d'écrire quelque chose ou est-ce qu'il était en train d'écouter quelqu'un? Et pourquoi il regardait quelqu'un et il dessinait? Il était concentré pour dessiner qu'il regardait bien droit devant. Il est concentré. C'est vrai que ce personnage, il lève la tête, alors que pendant ce temps-là, il a son papyrus déroulé sur ses genoux. C'est un papyrus, la feuille de papier qui est... Voci, suoni e rumori dal Louvre. Perché? Perché in questa puntata pre-pasquale ci piaceva parlare di gita fuori porta, ci piaceva parlare di visite, ci piaceva parlare di musei aperti, e per farlo abbiamo preso un simbolo, anche se il Louvre è ben più di un simbolo, perché è tuttora il museo più visitato al mondo, e quindi ci piaceva l'idea di fare un focus sull'esperienza del Louvre per capire come si fa a far diventare un museo un'eccellenza, come si fa anche a gestire un museo così importante e quali sono gli aspetti di un museo come il Louvre che possono essere, perché no, imitati anche da altre esperienze. E per farlo abbiamo invitato Claudia Ferrazzi, italiana e vice amministratore generale del Museo del Louvre. Ciao Claudia, buon sabato e benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Allora, la prima domanda è quasi scontata, Claudia, ma è tutto merito della Gioconda se il Louvre è il museo più visitato al mondo? No, non è merito solo della Gioconda. Noi abbiamo 13 chilometri di gallerie con una collezione magnifica che si costituisce dal 1793 e che è una delle collezioni, appunto, abbiamo la fortuna di fondarci su un patrimonio che è inestimabile. Ovviamente la Gioconda ne fa parte e fa parte di un percorso di capolavori, che è il percorso più frequentato del museo, ma una parte del nostro lavoro consiste anche a far scoprire delle cose forse meno conosciute, ma che sono importanti per tutta la civiltà, direi, universale. Certo, quasi 9 milioni di persone sono transitate lo scorso anno per il Louvre, quindi veramente un numero immenso. Immagino quanta soddisfazione anche per voi, insomma, che gestite il museo. E credo che il successo non sia solo merito del patrimonio, anche se il patrimonio contenuto in un museo ovviamente è fondamentale, ma anche nella gestione. Cosa vuol dire gestire in maniera oculata un museo come il Louvre? Allora, noi, come dicevo, abbiamo questa fortuna di una ricchezza patrimoniale inestimabile. Quello che pensiamo è che anche la programmazione culturale conti molto per attirare dei visitatori, e visitatori che sono molto motivati. Sono i 500.000 visitatori delle esposizioni, delle mostre temporanee che vengono a trovarci ogni anno, che sono molto significativi per noi, perché è un pubblico che conosce spesso il museo e le collezioni permanenti, che viene a scoprire dei punti specifici della programmazione che noi cerchiamo di far sempre coincidere con uno studio scientifico, una ricerca approfondita sulle opere. E per esempio quella che è attualmente in programma, che forse ne avete già parlato, è la Sant'Anna di Leonardo da Vinci, con una mostra dossier molto interessante sulla produzione della Sant'Anna e sull'impatto che ha avuto nei secoli successivi. E quindi questi 500.000 visitatori sono un po' specifici per noi e confortano l'idea che la programmazione culturale può mantenere un museo giovane, un museo al passo con il suo tempo e può completare un pubblico molto, molto rappresentato da stranieri, che è il pubblico delle collezioni permanenti. In tutto diciamo che abbiamo un terzo di francesi e due terzi di non francesi e quindi siamo molto fieri di questo. Abbiamo nel 2011 le prime nazionalità rappresentate sono gli Stati Uniti con gli americani che sono ritornati nel 2011 a viaggiare molto, l'Australia, il Brasile, l'Italia che viene subito dopo con i suoi 315.000 visitatori e che quindi è una delle lingue, l'italiano è una delle lingue più parlate al Museo del Louvre. Immagino. E Claudia, poi uno stretto rapporto anche tra il Louvre e la città ovviamente, ma anche tra il Louvre e i francesi, nel senso che i francesi sentono il Louvre come una cosa propria, ma è alla quale e per la quale anche possono fare cose. So che c'è possibilità di donare, c'è la possibilità di fare collette, c'è proprio un intreccio continuo tra il museo e i francesi. Certo, intanto il Louvre è nel cuore di Parigi, è il palazzo reale e quindi è una storia che si intreccia con la storia della Francia e dei parigini che è molto profonda e questo spiega una serie di iniziative che cerchiamo di fare per mantenere questo contatto con il pubblico di più vicino che vogliamo vedere nelle sale del museo e lo vediamo spesso in notturna, abbiamo due giorni a settimana, il mercoledì e il venerdì, in cui siamo aperti fino alle 22 ed è un pubblico più vicino, meno di stranieri e più di vicini di casa, se posso utilizzare l'espressione. Poi effettivamente abbiamo aperto dal 2010 la possibilità di effettuare una volta l'anno, allora siamo solo alla seconda edizione, quindi vi do i primi elementi, sì. Spero che avrà un futuro roseo, spero che queste iniziative avranno un futuro più che positivo. È la possibilità di mobilizzare dei donatori individuali, quindi dei piccoli mecenati che contribuiscono con dei doni. Allora quello del 2010 era per acquistare le Trois Grâces di Lucas Cranach, che è un quadro particolarmente simbolico per il pubblico francese, che è stato una mobilizzazione particolarissima di 7.200 donatori individuali che hanno ciascuno dato dei piccoli doni, sapendo che i piccoli possono andare da 1 euro a 40.000 euro. Fantastico. Quindi l'idea è proprio che ciascuno si senta partecipe di qualcosa che appartiene a tutti, di un patrimonio che poi si potrà trasmettere alle generazioni dopo. Ed è un po' l'idea di altre iniziative che abbiamo, per esempio la creazione un po' meno di 2 anni fa del fondo di dotazione, questa idea in che noi costituiamo un patrimonio che non ci appartiene ma che trasmettiamo alle generazioni dopo. E per esempio il fondo di dotazione ha l'obiettivo di darci la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie di un fondo senza toccare il patrimonio che trasmetteremo alle generazioni dopo, e quindi alcuni mecenati accettano di donare non per l'oggi, subito, immediatamente, ma per costruire un patrimonio. Appunto, guardando al domani, esperienze importanti, esperienze che possono essere anche progetti pilota sicuramente replicabili per altri musei. Claudio, in questi giorni di festa siete aperti? Sì, siamo aperti tutti i giorni, a parte il martedì, dalle 9 alle 18 e, come dicevo, in notturna, mercoledì e venerdì. Grazie a Claudia Ferrazzi, vice amministratore generale del Museo del Louvre. Ciao Claudia, buon lavoro e buona Pasqua. Grazie mille, ciao. Come sapete, ogni settimana scegliamo un tema comune con Euronet, il nostro network paneuropeo, tante radio, tante lingue, per affrontare anche temi comuni. Il tema di questa settimana è un tema particolare, prende spunto dai 100 anni dal Titanic, ma ci porta fino alla tragedia recente in Italia, proprio della Costa Concordia. Si parla di trasporti marittimi che formano ancora la spina dorsale dei commerci all'interno dell'Unione. Ecco, Euronet si chiede, la sicurezza è compromessa per aumentare i profitti? Quali sono queste regole? E queste regole vengono rispettate? Insomma, un tema tosto, e per affrontarlo abbiamo invitato Andrea Tassoni, che è il responsabile della comunicazione dell'EMSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima. Buongiorno Andrea, buon sabato. Buongiorno a lei. Ciao, tu da Lisbona, giusto? Esattamente, da Lisbona. Che cos'è, Andrea, questa EMSA, questa agenzia? Come è nata, come funziona? Beh, dunque, Dunque, l'agenzia nasce nel lontano 2002, dopo gli incidenti famosi delle petroliere Erika e subito dopo Prestige, l'Unione Europea si è detta dobbiamo fare qualcosa di più tecnico rispetto a quello che facciamo adesso, e quindi ha pensato di creare questa agenzia, appunto l'Agenzia per la Sicurezza Marittima, che dà supporto praticamente alla Commissione Europea e agli Stati membri. Oggigiorno siamo circa 220 persone qui a Lisbona dal 2006, precedentemente eravamo a Bruxelles, e come appunto ti ho detto diamo un aiuto, un apporto tecnico agli Stati membri e alla Commissione, cercando soprattutto di fare a livello centrale, quindi come Unione Europea, quello che altrimenti fatto a livello locale di Paese membro costerebbe di più e avrebbe meno efficacia. Certo, ma questo significa che non ci sono regole comuni, ovvero ci sono regole comuni ma ci sono anche tante regole o consuetudini locali? Beh, guarda, nel settore marittimo abbiamo tante regole internazionali, quindi che sono valide per chiunque viaggi nel mondo. L'Unione Europea ha negli ultimi 10 anni emanato tante leggi, quindi sotto l'aspetto legislativo direi che siamo coperti. L'importante è che queste leggi vengano rispettate. E in questo senso l'agenzia fa la propria parte, aiutando la Commissione da un lato a vedere che gli Stati membri applichino in maniera opportuna la legislazione europea, e dell'altro, per esempio, ti voglio fare un esempio di come cerchiamo di creare valore aggiunto. Come tu saprai, sulle navi di bandiera europea oggigiorno parecchi marittimi vengono da paesi extraeuropei. La domanda è: come fa l'Italia, la Spagna, la Francia ad essere sicura che questi marittimi abbiano un certificato, diciamo, regolare, che il loro sistema di formazione sia, diciamo, uguale o paritetico a quello che è in vigore nell'Unione Europea? Beh, la legislazione internazionale richiederebbe a ciascun paese di dislocarsi ogni 5 anni in India, in Bangladesh, in Vietnam, nelle Filippine, per verificare l'intero sistema di formazione. E invece che cosa succede? Lo fa l'ENSA, quindi dei miei colleghi viaggiano, fortunati loro, spesso in questi paesi per verificare appunto i loro sistemi di formazione, trasmettono le informazioni all'Unione Europea e l'Unione Europea dice sì, da domani le Filippine possono, diciamo, portare a bordo delle navi di bandiera europea dei marittimi filippini. Certo, insomma, questo per garantire comunque una professionalità degli addetti al lavoro. Esattamente. E quali sono invece altri settori critici su cui portate la vostra attenzione? Bah, io direi sicuramente la parte ambientale ultimamente. Noi abbiamo dei sistemi, lavoriamo sulla prevenzione e eventualmente anche nel rispondere eventualmente a un inquinamento. Quando ti parlo di prevenzione, ovviamente ci sono tante leggi europee da fare applicare e in questo siamo molto attivi. Allo stesso modo abbiamo creato un sistema satellitare che si chiama CleanSeaNet. Ti invito ad andare a vedere sul nostro sito web per una spiegazione più dettagliata, ma in breve praticamente noi diamo agli Stati membri delle immagini delle loro acque territoriali che ci hanno richiesto, dove c'è esattamente su questa, che possiamo chiamare una fotografia, identificata un possibile inquinamento, e addirittura riusciamo spesso anche a identificare la nave che ha fatto quell'inquinamento. Questo sull'aspetto preventivo. Se invece succede qualcosa, purtroppo qualcosa va storto, che cosa abbiamo? Abbiamo messo in piedi una rete, un network di navi anti-inquinamento in tutta Europa. Al momento ne abbiamo 16 e tra poco arriveremo a 18, che possiamo praticamente in qualsiasi momento mettere a disposizione degli Stati membri, e queste navi anti-inquinamento hanno capacità media superiore a quelle degli Stati membri, quindi noi andiamo ad aiutarli nel loro sforzo di lotta all'inquinamento. Quindi interventi diretti, interventi veloci, interventi operativi, non è solo lavoro d'ufficio. E un'ultima... No, assolutamente no, parecchi di noi hanno guanti, tuta e casco. Un'ultima domanda, Andrea, è stata presa la tragedia della Costa Concordia un po' come emblema. Possono succedere queste cose? Nel senso, voi come avete reagito vedendo una nave da crociera finire contro uno scoglio? Qual è stata la reazione emotiva e anche quella razionale, diciamo? Beh, emotiva puoi immaginarlo. Ovviamente si sta vicini alle vittime, perché la prima cosa a cui tu pensi sono esattamente le vittime. Sotto l'aspetto invece più razionale e tecnico, ti devo dire, è ancora prematuro. Per noi in questo settore non abbiamo un grande ruolo, perché è competenza pura dello stato di bandiera cercare di capire cosa è successo. Quindi in questo caso sarà lo stato di bandiera che deve fare la cosiddetta investigazione per cercare di capire che cosa è successo. Quindi in questo caso noi non abbiamo un grande ruolo. Perfetto. Da svolgere. Andrea, tu sei ligure, come vive un ligure a Lisbona? Cioè c'è questo molto link. Bene, sì. Molto bene, non solo per la lingua che è molto vicina al nostro dialetto, ma per il fatto che siamo sull'acqua come essere in Liguria, quindi siamo contornati da acqua e sole tutto l'anno, quindi è sicuramente una destinazione che consiglio a chiunque voglio passare alcuni giorni in una capitale europea. È tutta la nostra invidia. Andrea Tassone, responsabile della comunicazione dell'EMSA. Ricordiamo anche il sito, che è www.emsa.europa.eu. Ciao Andrea, grazie, buon lavoro e buona Pasqua. Ciao altrettanto, buona Pasqua anche a te, ciao. Europost-it. Risparmio energetico quando gli studenti fanno scuola. La questione energetica non è solo una delle sfide del secolo, è anche una competizione per studenti medi. La Commissione europea ha dato il via a U4Energy, la prima competizione che coinvolge le scuole medie superiori sul tema dell'energia. Ci sono tre categorie: migliori misure per l'efficienza energetica, migliori azioni didattiche sull'uso efficiente dell'energia e quella più avvincente, in cui sarà premiata la miglior campagna scolastica sull'efficienza energetica. I vincitori della fase nazionale avranno la possibilità di partecipare alla finale europea che si terrà a Bruxelles a fine anno. La gara è supervisionata dal commissario per l'energia Günther Oettinger, che accoglierà personalmente i vincitori e assegnerà il premio di 3.000 euro ai team che si aggiudicheranno le tre categorie. Per maggiori informazioni visitate il sito u4energy.eu. I'm gonna dance with her now, all right? Come on. What? Come with me. What? Jack! Jack, wait! I can't do this. We're gonna have to get a little bit closer. Like this. I don't know the steps. Neither do I. Just go with it. Uh-huh. Don't think. E con questa musica saliamo sul Titanic. Questa è la festa irlandese della terza classe del Titanic, dal film di Cameron, e andiamo sul Titanic perché è l'anniversario, perché è il suo anniversario, ma perché anche a Belfast pochi giorni fa è stata inaugurata questa mostra, anche se chiamarla mostra è riduttivo, perché è di fatto un quartiere navale che è stato trasformato e proprio al Titanic è stato dedicato. Tenteremo, come spesso amiamo fare qui all'Altra Europa, di farvelo vedere, e abbiamo chiesto l'aiuto a Laura Landi, che è una copywriter freelance a Belfast, che per noi ha visitato il quartiere navale e la mostra appunto appena inaugurata. Ciao Laura, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno. Ciao. A tutti. Buongiorno a te, buon sabato. Allora, raccontaci un po', questo museo, di fatto all'aperto, che cos'è, come ha trasformato anche questo quartiere? Io ho avuto la fortuna di visitare il museo e il quartiere sia durante i lavori sia adesso per l'opening, c'è stato il 31 di marzo, e in realtà la trasformazione è notevole, è stata veramente significativa. Bisogna immaginare una zona industriale, dei cantieri navali dismessi dove non c'era nulla, dove la sera non si poteva passeggiare, e adesso invece è uno dei quartieri più belli della città, con palazzi vetrati, tutti ispirati ovviamente al tema marinaro, pieno di vita, c'è un lungo fiume, un lungomare molto molto bello, tempo permettendo qui a Belfast le passeggiate dovrebbero essere piacevoli. E poi ovviamente c'è il museo, questo grande museo interattivo che è stato costruito proprio per ricordare anche nella forma il Titanic, la White Star, la compagnia che all'epoca si incaricò della costruzione, che consente di fare un tuffo nel passato non soltanto del Titanic ma in generale della Belfast industriale dell'epoca. Devo dire la verità, l'esperimento è riuscito in pieno perché i visitatori non si annoiano e il museo è assolutamente interattivo, consente di avere una visione chiara di quello che facevano gli uomini dell'epoca quando dovevano lavorare nelle navi, si viene guidati per un percorso che parte proprio dai disegni della nave, quindi da come avvenivano i modellini, i disegni, le carte nautiche che aiutavano nel decidere la stazza e così via, fino a poi all'imbarco passeggeri, al varo di questa nave che era la più grande di tutti i tempi all'epoca. E poi purtroppo finisce con le fasi del naufragio, del disastro e con il relitto che oggi è sepolto insomma nell'Oceano Atlantico. Si può vedere attraverso delle immagini prese nei fondali marini. Ma la parte più interessante, stranamente per il Titanic, non è quella relativa al naufragio, ma proprio la parte iniziale dove si possono vedere le impalcature, sono state ricostruite le impalcature dell'epoca, ovviamente in condizioni di sicurezza per i visitatori. Si può fare un giro per il cantiere salendo su dei vagoni con audio guida in italiano che spiegano tutti i momenti della fase della realizzazione della nave. E poi non c'è niente di originale. Okay. Questa è un'altra delle cose particolari. Ovviamente è rimasto poco e nulla del Titanic. Parlai prima della forma, nel senso che il museo ha la stessa forma del Titanic? Il museo è diviso in quattro ali. Viste dall'alto ricordano la forma di una stella, perché era il simbolo della White Star, la compagnia che costruì il Titanic. L'altezza della diciamo punta massima dell'ala, di ognuna delle ali di cui è formato il Titanic, il museo, è alto quanto era il Titanic dell'epoca, quindi camminandoci sotto si ha l'idea di quanto doveva essere maestoso vedere gli immigrati che si imbarcavano, la nobiltà dell'epoca che saliva su questa grattacielo galleggiante. Era davvero impressionante, soprattutto poi paragonati alle navi che c'erano all'epoca. Vicino, infatti, è stato realizzato il modellino del Nomadic, sì, che era la nave di trasbordo dai porti più piccoli al Titanic, e chiaramente non c'è paragone, si può avere una chiara visione di che cosa rappresentava all'epoca questa imbarcazione. Era qualcosa di mai visto prima. Certo. Davvero impressionante. E prima ci dicevi appunto di questo cantiere, anche questa la possibilità di passeggiare su queste impalcature ricostruite, quindi immagino che per gli stessi abitanti di Belfast sia un po' come tornare indietro nel loro passato, no? Un passato forse non dimenticato, forse non così lontano, ma sempre passato, sempre un passato tangibile. E sarà anche una boccata d'ossigeno, così si spera, per l'economia locale questo museo? Ovviamente si punta tantissimo alla riqualificazione turistica della città. Qui molti trovano davvero affascinante il fatto che tante delle persone che oggi lavorano intorno al Museo del Titanic e all'indotto siano magari gli avi, siano i discendenti delle persone che avevano lavorato alla costruzione del Titanic. D'altra parte Belfast non è una grande città, facciamo 600.000 abitanti con diciamo l'Interland, quindi è facile che ci siano tante delle persone in qualche modo legate alla storia del Titanic che oggi si ritrovano a lavorare nel museo. È qualcosa che affascina molto la città, infatti ci sono diverse mostre fotografiche che raccontano i volti di ieri e i volti di oggi, e anche questo paragone è qualcosa che spiega l'anima poi di questo posto, che ha una tradizione marinara ma che in qualche modo tende a dimenticarla, anche perché poi le vicissitudini che ci sono state qui hanno un po' messo da parte questo aspetto della città che andrebbe ripescato, sinceramente. Assolutamente. Una settimana intensa di appuntamenti. Questa sera, per esempio, ci sarà uno spettacolo di luci e poi il clou il 14 aprile con la commemorazione. Tutte le informazioni comunque sul sito thelinettatitanic.com. Grazie davvero, Laura, e buona Pasqua anche a te. Grazie a voi, buona Pasqua. Europostet. Stoccolma, folli danze in pausa pranzo con Lunch Beat. Chi l'ha detto che a ballare si va solo a notte fonda? C'è chi corre in discoteca appena ha una mezz'ora di libertà. In Svezia hanno creato il Lunch Beat, la discoteca in pausa pranzo. Con 10 euro ci si assicura il biglietto d'ingresso e un panino da consumare ballando prima di tornare in ufficio. dicono sia un successo soprattutto perché facilita le pubbliche relazioni. Impiegati, manager, commessi e studenti fanno attività fisica, ascoltano buona musica e hanno l'opportunità di conoscersi al di fuori dei loro cubicoli, rafforzando così lo spirito di gruppo. È un evento itinerante, quindi informatevi bene per pianificare il vostro Lunch Beat. Per maggiori informazioni visitate il sito lunchbeat.org. Is there a time for cool and live stay? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? To find the right dress to wear? Is he coming? L'Europa, 20 anni dalla guerra nei Balcani, e dopo 20 anni tutta l'Europa, i giornalisti prevalentemente che hanno seguito la guerra, si sono ritrovati a Sarajevo in questi giorni. 20 anni fa appunto i cecchini iniziarono a sparare su una folla di dimostranti che manifestava per la pace. Cominciava così l'assedio della città, che sarebbe poi durato per 1000 giorni, una guerra nel cuore dell'Europa, e per ricordare quel passato vicinissimo, quel passato di cui ancora comunque viviamo le conseguenze. Siamo in collegamento con Andrea Rossini, giornalista e regista di Osservatorio Balcani a Caucaso, che è Sarajevo appunto per seguire le celebrazioni di questi giorni. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Allora Andrea, tu sei lì, hai seguito queste giornate, ieri il culmine insomma di questo anniversario. Va bene la parola anniversario, nel senso che la parola anniversario dà un po' l'idea di un qualcosa che sia accaduto ma di cui poi non ci sia più traccia, invece credo che tracce ce ne siano ancora e siano tante. Di tracce ce ne sono, e come, sì, c'è un po' di imbarazzo nell'affrontare questo ventennale, perché ovviamente non si può celebrare un evento terribile come quello dell'inizio di una guerra. La città sta in questi giorni commemorando e continua a commemorare quello che è avvenuto 20 anni fa. L'evento centrale è stato questo concerto per 11.541 sedie vuote. 11.541 sedie vuote che ricordano il numero delle vittime di questo assedio. Molte di queste vittime, ricordiamolo, erano bambini che erano appunto sottoposti alla furia dei cecchini e ai bombardamenti dei nazionalisti serbi, che sono continuati appunto dall'aprile del 92 fino alla fine della guerra. Oltre, diciamo, alle celebrazioni, oltre alle commemorazioni della città, ci sono anche una serie di iniziative che continuano e che riguardano il mondo dei media, nel senso che questa guerra, anche dal punto di vista del rapporto tra informazione, pubblico e guerra, ha rappresentato un qualcosa di nuovo in qualche modo rispetto a quello che avveniva prima, nel senso che questa è stata una guerra seguita quotidianamente, raccontata quotidianamente dai reporter, ma raccontata anche dai propri abitanti, che infatti hanno contribuito a costruire questa sorta di museo virtuale dell'assedio di Sarajevo, che è stato presentato giovedì appunto nella capitale bosniaca, e che si compone di centinaia di quadri appunto raccolti da prospettive, da punti di vista diversi. Per quanto riguarda i media internazionali, il momento più importante è stato appunto questa conferenza che si è tenuta nell'albergo Holiday Inn, che era appunto la sede dei giornalisti internazionali durante la guerra. Una conferenza appunto dedicata al rapporto tra media e guerra, e poi anche ad una serie di presentazioni di materiali che vengono da quegli anni, di tipo soprattutto fotografico. Mm-hmm. Ecco, ma quello che è stato organizzato questi giorni, secondo te è stato vissuto più dalla città o più dai tanti, per esempio, giornalisti che sono venuti dall'estero? O comunque le due emozioni o le due sensazioni combaciano, o sono emozioni e sensazioni diverse? Questa è una città che è radicalmente che l'assedio ha radicalmente cambiato, nel senso che è stata come dire violentata la sua composizione demografica. L'obiettivo della guerra, l'obiettivo dei nazionalisti era quello di separare il paese lungo linee etniche, nazionali e religiose, e dobbiamo dire che questo obiettivo è riuscito, perché ad esempio una città come Sarajevo oggi è composta per la stragrande maggioranza da bosniaci, bosniaco musulmani, mentre gran parte dei suoi abitanti di origine serba o croata sono andati via e le loro case sono state prese appunto sono abitate oggi da bosniaci che a loro volta erano stati cacciati appunto da altre aree del paese. Per cui c'è una discrasia, nel senso che la Sarajevo di oggi naturalmente non è la Sarajevo del 92, resta però sicuramente una città come dire fondamentale, non solo per la Bosnia ma per il futuro dell'Europa, perché quello che si gioca a Sarajevo, che continua a giocarsi a Sarajevo, è fondamentale per il destino, credo, di tutti noi. Alexander Langer all'inizio del conflitto aveva lanciato quel suo drammatico appello, l'europarlamentare verde appunto italiano, aveva lanciato questo appello sull'Europa che muore o rinasce a Sarajevo, individuando in Sarajevo appunto quella che è la, come dire, il rischio per l'Europa, questo rischio di esplodere per la sua complessità, per la sua diversità, ma anche le potenzialità invece di creare un qualcosa di più ricco a partire da tutte queste da questi grandi racconti diversi che compongono appunto l'Europa, di tipo religioso, di tipo politico o di tipo nazionale. Andrea, questa responsabilità Sarajevo la sente? Questa responsabilità sicuramente la avverte ancora, ma io credo che oggi, 20 anni dopo, dobbiamo un po' anche invertire la nostra lente attraverso cui appunto leggiamo questa regione d'Europa, nel senso che il suo futuro certo dipende da quello che accadrà qui, da quello che accadrà a Sarajevo, da quello che accadrà in Bosnia e nel resto della regione, ma dipende moltissimo anche da quello che accadrà a Bruxelles, nel senso che la Bosnia ha avviato un suo faticoso e difficile percorso di integrazione nell'Unione, in questo momento ha firmato un accordo di associazione e stabilizzazione con l'Europa e vorrebbe entrare nell'Unione, però dobbiamo anche porci la domanda di che tipo di Unione accoglie o accoglierà la Bosnia-Erzegovina, perché io credo che l'Europa riesce a recuperare, come dire, quello che era il sogno dei suoi padri fondatori, o pensiamo ai federalisti come Rossi e Spinelli, oppure se si tratterà di un'Europa, diciamo, una grande zona di una grande unione doganale, però con tanti stati e staterelli, ognuno ancora geloso delle proprie prerogative diplomatiche, della propria sovranità, se non ci sarà questa capacità da parte dell'Europa di cedere sovranità ad una unione vera, il percorso di integrazione europea della Bosnia e della regione non cambierà molto quello che è lo stato di fondamentale ancora instabilità, diciamo, della regione balcanica. Ringrazio davvero Andrea Oscari Rossini per essere stato con noi. Vi ricordo anche il dossier che vi invito a leggere sul sito balcaniecaucaso.org, intitolato Bosnia 20 anni dopo. Ciao Andrea, grazie e buona Sarajevo e buona Pasqua anche a te. Grazie, auguri anche a voi. Musica da circo per questo finale di puntata che ci riporta a Parigi e ci riporta per raccontarvi una di quelle storie che ci piace scovare in giro per l'Europa, la storia di una circense, la storia di una circense milanese. Si chiama Cecilia Zucchetti, ha 20 anni e 7 anni che studia giocoleria, ha iniziato nella piccola scuola di circo di Milano e poi adesso invece studia giocoleria a Parigi. Ciao Cecilia, benvenuta all'Altra Europa. Ciao. Ciao. Va bene il termine studiare giocoleria? Sì, dai, diciamo di sì. Cecilia, insomma, la tua è una scelta di vita particolare, no? Perché comunque hai lasciato la famiglia, hai lasciato la città per seguire le clave, sono le clave la tua specialità? Sì, principalmente clave, però un po' di tutto, diciamo. Uh-huh. E che esperienza stai vivendo in questo momento? Dov'è questa scuola? Come funziona? Chi siete? Questa scuola si trova a Parigi, nella periferia. È un'accademia di circo che esiste da un sacco di anni, possiamo dire una delle più rinomate d'Europa. Uh-huh. E l'esperienza è strana, però è, diciamo che è totalizzante. Totalizzante vuol dire che vivete tutti lì e il circo è il centro delle vostre giornate? Vivere qui no, però è il centro lo stesso perché passiamo comunque dalle 6 alle 8 ore qua dentro, quindi quando esci vai a casa, ma il tempo è poco quello che rimane per fare altro. E chi sono i tuoi compagni di studio? Sono francesi o comunque siete ragazzi e ragazze che siamo arrivate da tutto il mondo? Siamo abbastanza misti. Sì? Mm-hmm. Principalmente il mio anno siamo francesi, perché comunque prendo molte poche persone, quindi su 8 che siamo 3 stranieri e 5 francesi. Ok. E com'è nato questo tuo strano amore per la giocoleria? Come vi siete incontrate? Diciamo che è stato mio padre che un giorno è arrivato a casa con 3 palline, per caso, da un amico che gliele aveva regalate, e ha cominciato a provare, io l'ho seguito e non ho più smesso. Mm-hmm. È stato un amore al primo incontro. Ok. Ma quindi hai deciso di trasformare questo amore in una professione? Si può vivere di giocoleria oggi? Sì. Mm-hmm. Abbastanza. Spero almeno. Mm-hmm. È quello che tenterò di fare. E studi solo giocoleria? No, qui abbiamo di base abbiamo danza, teatro e acrobatica. Mm-hmm. E poi ognuno ha la sua specialità, che possa essere o giocoleria, o trapezio, o clown, piuttosto che tutte le varie discipline nel circo. Certo. Cecilia, ma ci sono differenze di approccio, nel senso, quando magari a Milano, quando sei in Italia e racconti che tu studi giocoleria, ci sono reazioni diverse da quelle che hai quando magari la stessa cosa la dici in Francia? Sì, soprattutto perché la cultura del circo è molto differente. In Italia quando dici studio circo pensano subito a Moira Orfei, circhi tradizionali, mentre già in Europa, soprattutto in Francia, c'è una visione molto più ampia, tipo circo come teatro o come molto più inglobato comunque nell'azione culturale, diciamo. Mm-hmm. E ti senti artista tu, giustamente? Sentirmi artista, sì. Ci... nel biglietto da visita? Nel biglietto da visita? Il biglietto da visita è quello. Ok. E come saranno i tuoi prossimi mesi, i tuoi prossimi anni? Cosa accadrà questo percorso formativo? Io ho ancora un anno e mezzo di scuola. Sì. E nel frattempo sto comunque già lavorando con una compagnia inglese, si chiama Gandini, con cui lavoro molto in giro per la Francia, l'Inghilterra con gli spettacoli. Quindi mm-hmm. faccio metà scuola, diciamo metà già lavoro professionale. Ok. E i prossimi anni, dopo la scuola, si vedrà. Ok. Ho visto che hai aperto anche un canale su YouTube, youtube.com/Cecilia sì, Juggling. Un po' di video per far vedere quello che sai fare. Qual è la tua quantifica, cioè con quante clave già riesci a fare? Sto studiando alle 6.